Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un argomento che è sempre circondato da sospetti, equivoci e pregiudizi, ammantato da molte ombre, ed è quello dei servizi segreti, in particolare dei servizi segreti italiani. E ci dà lo spunto il libro di Andrea Vento, che è uno giornalista ed esperto di problemi della sicurezza e di politica internazionale, che attualmente lavora come dirigente del Comune di Milano, che si intitola In silenzio, gioite e soffrite, storie dei servizi segreti italiani dal Risorgimento alla Guerra Fredda. È pubblicato dal Saggiatore, 508 pagine, €19,50. Il titolo è tratto da un calendario del SIM del 1937, una frase che secondo l'autore richiama una particolare obbedienza, quella appunto del silenzio, di cui fanno parte i servitori segreti o ignoti dello Stato, alla quale dovrebbe rispondere un equilibrato ammontare di gioie e di sofferenze nelle more di un'esperienza che si può definire iniziatica, così Andrea Vento. Nel libro l'autore ricostruisce la vicenda dei servizi segreti italiani, che affondano le proprie radici in un'antica, antichissima tradizione, anche molto efficiente, che risale allo Stato della Chiesa, alla Repubblica di Venezia, alla Firenze dei Medici, come ricorda l'introduzione al libro. E tutto quest'ultimo poi risulta molto documentato, ci sono oltre 150 pagine di note, di apparati, è particolarmente utile per accostarci a una prospettiva particolare della storia d'Italia, sulla quale sentiamo adesso l'autore. Buongiorno ad Andrea Vento. Buongiorno. Andrea Vento, lei sottolinea nel suo libro il filone risorgimentale, istituzionale, possiamo dire anche liberale, nazionale, che c'è stato nei nostri servizi segreti. Ecco, quanto è stato forte questa tradizione, questo filone? Per quanto riguarda i 90 anni che ho studiato, che vanno dal 1859 al 1949, inclusa la parentesi del ventennio fascista, il tema risorgimentale, nazionale e persino liberale è stato molto forte. Dico inclusa la parentesi fascista perché, salvo il triennio 34-37, la componente liberale era rimasta forte anche per gli anni 20 e ancora poi riemergeva più tardi. Quindi la risposta è sicuramente una presenza significativa. Basti pensare, per quanto riguarda il Risorgimento, a personaggi come Giuseppe Govone, il padre dell'intelligence, un generale, e i garibaldini Nino Bixio e Stefano Tur, che furono impiegati in una serie di operazioni, infine il famoso ambasciatore Costantino Nigra, padre degli accordi di Plombières. E quindi questo potrebbe confermare le tesi di molti antipatizzanti del Risorgimento, secondo i quali appunto il Risorgimento fu più opera dei servizi segreti che non dei patriotti? No, direi che la componente patriottica era fortissima, così come evidentemente queste persone avevano un credo. Infatti ho citato ufficiali garibaldini, così come diplomatici cavuriani, insomma di ispirazione cavuriana, e ancora militari piemontesi, che credevano realmente nel processo unitario. Che poi vi sia stata una componente di buona interlocuzione sia diplomatica sia di intelligence con la Francia e con la Gran Bretagna, questo sì, ci sentiamo di confermarlo, che vi sia stato un qualche aiuto esterno. Ecco, a parte questa caratteristica, quali sono stati gli altri elementi distintivi della tradizione dei servizi di intelligence italiani? Innanzitutto va detto che il tipo umano era un tipo molto variegato, soprattutto per quanto riguarda l'Ottocento, la Belle Époque, fino alla Prima Guerra Mondiale. C'era l'ufficiale in servizio permanente effettivo, c'era il diplomatico, c'erano degli imprenditori di frontiera, un po' avventurieri, come diciamo gente che operava nel Levante, operava nelle colonie o persino nell'Estremo Oriente. Vi erano infine anche nobildonne o anche donne, diciamo, di facili costumi, senza arrivare ai parossismi piuttosto di alcune persone che operano nell'immaginario collettivo anche adesso. Devo dire che comunque erano un'umanità varia, però tutti abbastanza legati ad ideali, e non necessariamente, non mancavano anche gli indicatori a fronte di moneta, ecco, però direi questi erano i tipi. Ecco, lei ricordava che la sua indagine si conclude agli anni 50 di 49. Sì, del secolo scorso. Ecco, dopo ha cominciato a prendere piede questa immagine dei servizi deviati. Aveva questa deformazione, affonda le sue radici nella storia precedente o appunto è stato uno scarto c'è stato negli anni successivi che ha modificato il rapporto dei servizi di intelligence con le istituzioni? Premetto che non ho approfonditamente, giustamente, studiato quello che è avvenuto dopo il 49. È chiaro che vi è nell'opinione pubblica il concetto di una sovrastruttura, il noto servizio, i servizi deviati, eccetera, eccetera. È vero che vi sia stata una grossa perdita di sovranità dopo il 45, a ben vedere, e che quindi evidentemente intelligence straniere possano essere intervenute su quello che sono i nostri apparati. Però tornando ai 90 anni di storia che ho studiato, come dico dal 61 al 49, vi era una forte sovranità. Ecco, in questo caso i nostri servizi non erano eterodiretti, non erano, a mio modo di vedere, salvo alcune deformazioni e deviazioni di quel triennio buio che va dal 34 al 37, 38, dove l'intelligence militare diventa ideologica durante il fascismo. Però per quanto riguarda il resto, io credo in un una regola hegeliana, cioè i servizi segreti, come tutti gli altri uffici dello Stato, come tutte le altre amministrazioni, rispondono allo Stato, magari con un eccesso di zelo, ma mai in una logica puramente deviante. E quindi dovremo approfondire gli anni successivi per capire appunto quali sono state le ragioni di questa devianza. Mi pare che lei faccia trapelare l'idea che siano stati piuttosto interventi esterni a giustificare queste tesi. Non dico che non siano mai mancati gli strumenti del mestiere, i ferri del mestiere, che possono essere il dossieraggio, gli ascolti, persino, come ho detto, negli anni 30 alcune eliminazioni. Però tecnicamente il tema di una guerra civile portata avanti dai servizi, quando invece devono pensare evidentemente a eventuali minacce esterne, non appartiene ai primi 90 anni di storia. Con questo non voglio negare che qualche distorsione, qualche strumento lesivo della onorabilità delle persone qua, o dei gusti sessuali, o ancora evidentemente di comportamenti, non siano stati utilizzati anche negli anni dell'Ottocento o del primo Novecento. Grazie ad Andrea Vento, autore di In silenzio, gioite e soffrite. Buona domenica. Buona domenica, dottor Carruba. Una vicenda della storia repubblicana molto più recente a noi, perché si parla del 1964, nella quale furono coinvolti appunto i servizi segreti, è quella che ci ricostruisce lo storico Mimmo Franzinelli nel libro Il piano solo, i servizi segreti, il centro-sinistra e il golpe, tra virgolette, del 1964. È pubblicato da Mondadori, 380 pagine, 20 euro. Anche qui troviamo un libro molto documentato, con note biografiche, documenti, su una vicenda che era rimasta sostanzialmente oscura fino adesso nella storia d'Italia, nonostante che abbia dato luogo a molte polemiche e una famosa inchiesta giornalistica del settimanale L'Espresso. Al centro della vicenda è la paura che il Presidente della Repubblica di allora, Antonio Segni, aveva perché la politica italiana, a suo parere, si stava spostando troppo a sinistra, e quindi Segni mise a punto un progetto politico che avrebbe dovuto vedere l'interruzione dell'esperimento di centrosinistra, la sostituzione del governo Moro con una formula più moderata e la preparazione di un piano, appunto il piano solo, studiato con lo scopo di garantire l'ordine pubblico e di predisporre eventualmente l'isolamento, addirittura l'esilio di alcuni esponenti politici considerati sovversivi perché comunisti in Sardegna. Il disegno di Segni allora non riuscì, ma naturalmente le polemiche ebbero uno strascico lunghissimo su quell'accaduto, sul ruolo che aveva svolto in quell'occasione il SIFAR, cioè il servizio segreto delle forze armate, che erano indirettamente ma efficacemente controllate allora dal generale De Lorenzo. L'autore riconosce che ci fu molta propaganda in quella vicenda, soprattutto da parte del Partito Comunista, che tendeva a mettersi in luce come il baluardo della democrazia. Scrive infatti Franzinelli: il PC utilizza lo scandalo SIFAR sul piano parlamentare e propagandistico per accreditarsi quale baluardo democratico contro le insidie autoritarie, lasciando nell'ombra due importanti aspetti: la lotta frontale condotta contro Moro e Nenni durante la difficoltosa tenuta del quadro democratico da parte dello stesso Partito Comunista e il persistente legame con l'URSS. E per questo Franzinelli sottolinea anche la problematicità del centro-sinistra indebolito da divisioni interne, attaccato da chi si sentiva minacciato dalla politica riformatrice ispiratrice, per questo l'autore parla di discutibile tesi del piano solo come archetipo dei tentativi golpisti. E qui dimostra i suoi assunti con un'analisi storica molto importante che conduce su documenti finora inediti, ricostruisce le personalità di Segni, di De Lorenzo, presenta in forma completa l'elenco dei 731 enucleandi, quelli che appunto avrebbero dovuto essere internati in Sardegna, e poi spiega le vicende successive che diedero luogo a numerose commissioni, inchieste, procedimenti giudiziari che sostanzialmente non alzarono mai definitivamente il velo su questa vicenda. Andiamo un po' in là nel tempo e risaliamo al fascismo con il libro di Giovanni Sedita, Gli intellettuali di Mussolini, la cultura finanziata dal fascismo, pubblicato dalle Lettere, 254 pagine, 20 euro. A partire dagli anni 30 il fascismo fu molto generoso a modo suo con gli intellettuali e si pensa che, almeno il libro dimostra, che ci furono a disposizione oltre 600 milioni di lire dell'epoca che vennero distribuiti a 900 intellettuali e 400 giornali. E quindi il meglio dell'intellettualità italiana attinse a questi fondi, molti di questi naturalmente poi divennero antifascisti, erano loro stessi a chiedere soldi al fascismo, che fu in questo molto generoso perché costruì il consenso, o cercò di costruire il consenso, anche per evitare che gli intellettuali italiani andassero all'estero e naturalmente diffondessero cattiva stampa sul regime. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parlavamo di politica italiana. Vi propongo adesso un tema più vicino a noi, nel quale fortunatamente i servizi segreti non c'entrarono, e cioè la nascita del Partito Democratico della Sinistra, che poi confluì, come sapete, nel Partito Democratico. Ricostruisce quelle vicende il libro di Valdo Spini, 20 anni dopo la Bolognina, Rubbettino, 198 pagine, 14 euro. La Bolognina è il luogo di Bologna dove Occhetto, all'improvviso, subito dopo la caduta del muro di Berlino, appunto, cambiò il nome all'improvviso al Partito Comunista. E quella vicenda ci viene raccontata appunto da un protagonista, perché Valdo Spini era allora un politico di primo piano, era stato vice segretario del Partito Socialista, ministro dell'Ambiente ed ebbe poi incarichi di rilievo nel Partito Democratico. E Spini spiega nel libro le cause della difficile condizione del Partito Democratico, che secondo lui affondano proprio nel non risolto rapporto allora col Partito Socialista e la tradizione laburista, e indica Spini 4 impazienze: quella di Occhetto, che fece la gioiosa macchina da guerra convinto con questo di poter battere Berlusconi; quella di D'Alema, che volle fare del PDS di allora l'erede dei socialisti senza però saper andare fino in fondo nella scelta di una tradizione, di una linea politica coerente; quella di Fassino, che condusse sostanzialmente alla nascita del Partito Democratico facendosi scudo, scrive l'autore, dell'appartenenza al socialismo europeo; e infine l'impazienza di Veltroni, quella di correre da solo, che condannò, secondo Vispini, il partito alla sconfitta elettorale. E il libro si conclude con alcune indicazioni concrete, alcuni temi sui quali formare una piattaforma per un partito che possa ambire a diventare partito di governo. Spini indica 4 temi: la laicità, il lavoro, il partito di Spini dovrebbe essere il partito della produzione del lavoro, non della rendita o della speculazione finanziaria fine a se stessa; terzo punto, le riforme; e infine il rapporto partito-paese. Non si può stare a mezza strada, scrive, tra partito all'americana, in cui la burocrazia partitica dei periodi intermedi non ha una vera importanza politica, e partito all'italiana, in cui un potere all'apparato partitico permane mentre la democrazia nei partiti si è dissolta. Come vedete, temi molto attuali che dominano ancora il dibattito di questi giorni, dopo 20 anni dalla nascita di quel partito. Potrei sapere chi l'ha dipinto? Serafina, la vostra domestica, cioè la nostra. Lavorava nel convento vicino, le è apparso il suo angelo custode e le ha ordinato di dipingere. È uscito nei giorni scorsi nelle sale cinematografiche il film Serafin, un film di Martin Provost con Jolande Moreau e Nicole Rognier. Il film parla della vita della pittrice Serafin, appunto, dalle umilissime origini, che divenne famosa grazie alla scoperta che di lei fece un grande collezionista, lo stesso che aveva introdotto sui mercati Picasso e il doganiere Rousseau. La sua storia è raccontata nel libro Serafin, la vita sognata di Séraphine de Sully, di Françoise Cloarec, che è una psicanalista e pittrice lei stessa, è pubblicato da Archinto, 166 pagine, 12 euro. Tradotto il libro da Daniela Marin. Séraphine fu una figura singolare, come vi dicevo, era nata nel 1864, era rimasta orfana a 7 anni, iniziò a fare la domestica, poi per un periodo entrò in convento, e riprese a fare la domestica finché a 42 anni sente un ordine venuto dall'alto, quello di dipingere, e sentiamo dal libro proprio la descrizione di questo momento. Séraphine, devi metterti a disegnare. A 42 anni Séraphine si affretta a ubbidire all'ordine venuto dall'alto. Si dice anche che le sia apparso un angelo. Angelo, Vergine Maria, di qualunque cosa si tratti, l'ingiunzione viene dal cielo. Il suo desiderio di dipingere è più forte di ogni pensiero. Oppure, i pensieri che la occupano sono colorati, fioriti, non hanno parole. Ha la certezza della sua missione, deve rispondere all'appello, crede in esso. Mette in atto l'ordine, finalmente ha la sensazione di trovarsi in accordo con se stessa e soprattutto con l'altro più grande di lei. La voce interiore è diventata reale. La Vergine tanto amata, tanto sacra, tanto vicina, le parla. Da tempo in Séraphine vive una tensione, un trasporto che la spinge alla pittura. È una necessità per non precipitare in un altrove inquietante, per non rompere con il mondo degli altri. L'appello del cielo è una guida. Seguire la voce. Séraphine non può darsi da sola il permesso di dipingere. È costretta a passare attraverso la Madonna o un angelo. Forse è stato solo un soffio, non ha importanza. Qualcosa è arrivato all'arte, alla storia dell'arte. Séraphine ubbidisce, ha l'abitudine di ubbidire da quando è nata. Con l'appello che viene dal cielo ha trovato il modo di dare forma a un desiderio imperioso. Ma come fare? I professori danno lezioni alle ragazze di buona famiglia, non alle vecchie domestiche. Ultimi arrivi. Freschissimo di stampa e di Donata Francescato, psicologa dell'Università di Roma, il libro Amarsi da grandi, vivere con gioia anni preziosi, pubblicato da Mondadori, 282 pagine, 19 euro. È un libro che insegna a dare senso alla propria vita dopo gli AMTA, 40, 50, 60 anni, quando le persone possono innamorarsi di nuovo e comunque affrontano scelte decisive nella loro vita, quali il pensionamento, i primi acciacchi, la nascita di qualche nipote e comunque l'uscita di casa dei figli. Vi segnalo anche il secondo volume nell'edizione di lusso della Delphi dei romanzi di Georges Simenon, 1836 pagine, 65 euro. Troviamo qui alcuni titoli ripubblicati di recente dello scrittore francese, e alcuni di questi titoli sono stati anche segnalati in questa trasmissione, per esempio il bellissimo breve romanzo Il Presidente, ma troviamo anche alcune avventure di Maigret. Infine vi segnalo di una scrittrice italiana, Antonella Boralevi, Una vita in più, è pubblicato da Rizzoli, 306 pagine, 18 euro. Qui troviamo quattro personaggi che ripropongono nei loro intrecci temi eterni quali l'amore, la passione e i legami familiari, spesso sorprendenti, ma intessuti in una storia molto moderna, fatta anche di moderne tecniche riproduttive e di passioni omoerotiche. Il confettino. Vi propongo oggi una nuova serie dell'edizione di San Paolo, sono due libri di Maria Gianola, Che faccia fai, Che animale sei, costano 12 euro e sono rivolti ai lettori, anzi ai bambini più piccoli, non ancora lettori. I bambini utilizzeranno il libro per scegliere dalla copertina l'animale o l'espressione che preferiscono e troveranno collegato a questa immagine una storia che la mamma, per espressa dizione del libro, potrà leggere loro. Con questo ringrazio Margherita in redazione e Pietro Lacorti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.